poliziotti di merda. Che latita tra il fango e la realtà. Qua prima lo stendo e poi lo imprimo come fosse DAS. Ma qui c'è chi per guadagnarsi un posto all'aldilà se percorre sulle stesse, sì, ma per l'eternità. Sa, sua signoria, stenda sti tappeti rossi, grossi. Chiede almeno quanto la pazzia che mostri. I nostri lasciano segni sull'asfalto e gli avamposti. E la traccia mentre scorre lascia il marchio sopra i vostri. Corri, corri, ma troppo forte leviti, li dedichi. È così comune che lo vedi e lo dimentichi. Siediti e guarda il sole spento tramontare sotto montagne di morti. Io mi sveglio all'albeggiare, che vuoi fare? Cammino ma per ore, cerca la destinazione. Ma se alzo il polverone ci perdiamo due. Coglione, cammino ma da solo. Se c'è qualcuno dietro è solo perché lascio briciole di non merda. Non seguo l'orme di nessuno e non lascio le mie mano scie. Pessimistiche per depistarvi da rette vie. Rigetto a cronomi alla gente, tanto per quel che sente. Fai che fermenti è più che sufficiente. Alterno passi di soppiato a fasi di scatto. Programma in atto e non prevede ascesa, nessun patto. Installo odio nelle mente, acquisisco il permesso solo nel momento in cui premendo play. Cedi nel tempo, non seguire le mie impronte portano conseguenze. Volte al passato ma rinculo fosse il mio presente. Non vedo il bene niente, decado nell'oblio. Il tuo buon dio non scende nella merda al posto mio. Dio, il risultato di esperienze del contesto in cui ho vissuto. E per gli errori che ho commesso sono già fottuto. Vivo dolore per capire quello che sento. Piantati un pugnale al cuore, muovilo sul tempo. Ascolto poco le opinioni, né tanto meno i consigli. Non seguo orme né valori e non vado cercando cado a pili, giro con gli occhi per me e senza meta. Col delirio in onda nella notte come un'ombra senza lasciare un'impronta. E c'è chi segue strade già percorse tra progetti stretti, tra improbabili concetti persi tra forse. Chi invece segue la strada più dissestata lascia corpi morti dietro, calpesta terra bruciata. Dammi il tasto dell'innesco, lo premo poi salti in aria, giuro. Chiacchiera zero sul serio, non ce n'è per nessuno. Non conta un cazzo se tu sei qualcuno, tanto non lo togli il tanfo per coprirlo. Non basta il profumo, quindi spremiti a sangue le meningi, attingi dalle due, tra suddetti artisti militanti dal 92. Per quel che mi riguarda segui il tuo percorso, fatti un bel taglio sul polso e continua pure col tuo giro discorso. Senza scarpe non vi lascio piatti in mano senza carte. Faccio parte di chi parte ma non lascia impronte sparse. Esamino sti passi falsi, forse farò tardi, ma io fuggirò al sicuro in un futuro senza sguardi. E dammi mezza porzione di tritolo e te lo spremo ora. Stessa la lezione, piazzo bombe perché scrivo ancora. Dal 2001 e forse non sarò nessuno. Lascio impronte su sti suoni finché il palco lo consumo. Non sento niente a parte solo la mia musa. Non aprire la mia testa, fra è meglio se resta chiusa. Scusa, sono dislessico, pessimo quando mastico sto lessico che incastro in questo plastico fantastico. Taglio tattiche di fuga del ground zero cuga. La mia squadra striscia sotto la città solo se notte buia. Ma chiedi a tutta la gente, si sente che è differente. Fretta MC scrive le forme contorte per la tua mente.